nostro amici è il trionfo, Ingo ribelle cade, e la pace al nostro impero è resa. Ruoti or la falce e tronchi i miei stami vitali, invida parca, quello di mie vittorie, l'ultimo è de miei dì. Più nobil fine non poteami dal cielo esser prescritto. S'applauda, vissi assai, se moro invitto. Lascia, signor, che sul regge piove, posta il fame m'ha ferito. E, Cino, morir in piedi un re solde. Tu, primo del voler nostro, interprete custode, prendi su questo foglio, chiuso dal regio impronto, chiamor erede alla corona. Accresco titoli al sangue e alla natura applaudo. Bacia la mano che tanto onor mi innalza. E tu, Sivenio, o primo duce del campo, al cui valor tenute di non lievi trofei son le nostre armi, prendi il regal sigillo nella tua mano pongo, e tu lo rendi a chi dovrare leggi in por del trono. Tino a terra la fronte e pace il dono.